Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, una trasmissione dedicata largamente al Pioniere di Gianni Rodani e Dina Rinaldi. Abbiamo già scandagliato oltre frontiere in Francia quello che era il referente del giornale Fumetti del dopoguerra del PC in versione francese, quindi il punto di riferimento del Partito Comunista Francese. Il giornale era Vaillant prima, poi Fils Gadget dopo. Oggi invece guardiamo un'altra parte del mondo, guardiamo la parte del mondo del socialismo realizzato, così si diceva al tempo, oltre Cortina, oltre il muro di Berlino, ovvero sia guardiamo il fumetto nella Germania Est, come era valutato, come si viveva e quali erano i rapporti con l'editoria italiana del Pioniere. Siamo dunque andati a Dresda a sentire Guido Weishan del club del Coming Friend della DDR di Dresda, quindi la Germania dell'Est prima della caduta del muro, e con Francesca, che ringraziamo per interviste che ha effettuato per la nostra trasmissione. Sentiamo un po' quali sono i riverberi dall'altra parte del mondo della Guerra Fredda nella vicenda del fumetto per i ragazzi. Quindi, dopo una piccola introduzione musicale, non a caso affidata alla colonna musicale del film Goodbye Lenin, andiamo a sentire questa intervista proprio curata da Francesca Clementoni e Guido Weishan. La prima domanda a Guido Weishan è quella che riguarda l'importanza del fumetto nella Germania Est e nei suoi maggiori esponenti. Nel periodo antecedente la Seconda Guerra Mondiale, direi che i fumetti hanno avuto un ruolo assolutamente secondario. Erano molto popolari nei paesi dell'Ovest e questo ha ostacolato la diffusione del fumetto stesso a Est. The socialist state always was a bit hesitant to propagate comics that much. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Partito Comunista Italiano era molto diffidente nei confronti dei fumetti perché percepiti come espressione culturale troppo legata al nemico americano. Erano considerati di serie B rispetto ai grandi classici della letteratura. Era uguale anche in Germania dell'Est? It was exactly the same thing in Germany. I think even in West Germany it was for a while in the 50s. Sì, è successa esattamente la stessa cosa in Germania. Penso che anche in Germania dell'Ovest, durante gli anni 50, il fumetto fosse considerato pericoloso per i bambini perché troppo americano. Ma in Germania dell'Est si resero conto che i bambini amavano i fumetti e prima della costruzione del muro nel 1961 era abbastanza facile in Germania Est procurarsi fumetti come Topolino o altri. Quindi ognuno se li procurava da solo. Ed è successo per caso che un ragazzo che si chiamava Hannes Enger, un disegnatore della metà degli anni 50, andò da un grosso editore di letteratura per giovani e propose una rivista di fumetti della Germania Est. La chiamò Mosaic e sviluppò tre piccoli personaggi, Dig, Dag e Digedags. Erano tre folletti con sembianze umane e questo divenne l'unica reale rivista a fumetti della Germania dell'Est, fino alla caduta del muro. I fumetti della Germania dell'Est erano prevalentemente di evasione o veicolavano la pedagogia e la propaganda socialista? Well, actually we had both of it. Because the escapist style of comics, like with the Digger Ducks who had their adventures in the South Sea with pirates. Entrambe le cose. Perché i fumetti di evasione erano molto popolari, come i Digger Ducks e le loro avventure nei mari del sud con i pirati oppure con il circo itinerante nell'antica Roma, eccetera. Ma lo Stato voleva che i fumetti fossero più educativi e diffondessero maggiormente l'ideologia socialista. Così venne creata un'altra rivista di fumetti, chiamata ACE. Venne fondata nella metà degli anni 50, usciva una volta al mese e dalla fine del 1961 era composta da una storia soltanto. La rivista aveva solo 16 pagine e 8 di queste pagine erano dedicate ad una storia con contenuti politici. Si parlava di lotta di classe, della costruzione di una società socialista in Germania Est e così via. Quindi abbiamo avuto entrambe le tipologie, il fumetto di evasione che era molto più popolare e il fumetto politico. Il fumetto di evasione era così tanto popolare perché c'era un'unica rivista che ha sviluppato un grandissimo seguito che arriva fino ai giorni nostri. Tanto è vero che Mosaic esiste ancora oggi. È partito in Germania, diventato famoso in tutto il mondo e ancora prodotto oggi. Also exists still today. It's the longest running in Germany, produced in Germany comic magazine that we have. It has just, it's, you know, it came from East Germany, but it has endured the coming down of the wall and still produced today. Quanto la madrepatria Unione Sovietica ha influenzato le pubblicazioni per bambini e ragazzi della Germania Est? There was an influence in so far that very popular C'è stata un'influenza, nel senso che alcuni libri molto popolari in Unione Sovietica, come quelli di Alexander Volkov, sono stati pubblicati anche in Germania dell'Est. La tradizione letteraria per ragazzi era molto particolare e specifica in Germania Est, perché veniva soprattutto da scrittori tedeschi famosi come Erich Kästner. In Germania Est si è sviluppata una scena molto prolifica di autori di libri per bambini, specifici della Germania Est, e quello che scrivevano non subiva molto l'influenza dell'Unione Sovietica. Sicuramente era molto presente l'influenza delle idee socialiste e anche gli editori facevano in modo che i libri da loro pubblicati trasferissero l'ideologia socialista. Ma si tratta di una tradizione letteraria autonoma, specifica della Germania Est. Transport ideological things, but it's been a quite a good tradition and it's a distinct East German tradition, I would say. Quali sono stati i contatti e le quali le relazioni tra l'editoria per ragazzi della Germania dell'Est e il pioniere italiano, se ci sono stati? There definitely was, but the problem is most of the editors, even the ones I met. Sicuramente ci furono. Il problema è che la maggior parte degli editori, anche quelli che ho incontrato, nel frattempo sono morti. Per questo motivo non posso avere un'informazione esatta di questo. Ma noi abbiamo pubblicato una storia presa da una rivista italiana per bambini come Il Pioniere in una rivista per bambini nei primi mesi del 1956. Quindi l'editore doveva essere in contatto. Marcello Argilli, che scriveva per Il Pioniere e libri per bambini, ha avuto contatti diretti. Ho le lettere nel mio archivio, negli ultimi anni di Atomino. Infatti, intorno agli anni 60, Atomino ha smesso di essere pubblicato. Argilli e gli altri sono stati pagati per anni dalla rivista per continuare a scrivere storie specialmente ed esclusivamente solo per la Germania dell'Est. Ecco il contatto. E credo anche che l'editore abbia avuto contatti attraverso gli editori di letteratura per ragazzi, i quali erano in contatto diretto, per esempio, con Gianni Rodari. Cosa rimane oggi nella nuova Germania unificata della tradizione storica dei fumetti che si è sviluppata allora in Germania dell'Est? Come già accennavo prima, abbiamo due lavori. Una è la rivista di fumetti chiamata Mosaic, che ancora esiste. La seconda è la versione tedesca di Mickey Mouse. Queste sono le uniche cose rimaste. Per quel che mi riguarda, sono riuscito a pubblicare per circa 10 anni, dal 2005 al 2015, una selezione di strisce di fumetti tratte dalle pagine per bambini di popolari riviste settimanali della Germania Est, per un piccolo circuito di appassionati. Sto parlando di circa 500.000 persone che si sentono ancora legate a questa tradizione. Questo è tutto. Purtroppo la maggior parte di questa esperienza è andata insieme ai cambiamenti politici. Dunque, questa era l'intervista a Guido Weissmann di questa realtà legata ai fumetti di Dresda che riguardava la vecchia Germania dell'Est. Ringraziate ancora Francesca Clementoni per l'intervista e la stessa traduzione delle risposte di Guido Weissmann. E andiamo invece alla Germania non del premuro, non del dopomuro, ma la Germania della caduta del muro. E lo facciamo con una graphic novel dal nome curioso Io dov'ero il giorno in cui cadde il muro. Parliamo di questo volume, Io dov'ero, il giorno in cui cadde il muro, con il testo di Francesco di Taranto e l'illustrazione di Lucrezia Buganè, che parla di un ragazzo che lavora a Berlino, capelli lunghi, con la coda annodata dietro la testa, è un operaio metalmeccanico specializzato delegato FIOM, leggo da questa graphic novel, ero un comunista, forse lo sono ancora, quando partì ero deluso anche di Democrazia Proletaria, entro poche ore sarei tornato a Bologna. Ecco, leggendo questo incipit, lui si chiama nel romanzo Attilio, ma mi sembra molto il mio amico Andrea. Sì, sono io. Allora, io dov'ero il giorno in cui cade il muro? Io dov'ero? Chiaramente ero a Berlino in quel momento lì. Era diciamo, una giornata particolare per me perché ero su già da più di un mese. Per conto della Weber, sì, gruppo Fiat. Il gruppo Fiat si stava così allestendo, costruendo uno stabilimento che avrebbe prodotto il nuovo carburatore per la nuova Trabant. E quindi era anche ricordate la Trabant, quei due tempi che facevano un rumorino, un sacco di inquinamento. E questo fumo azzurrino che usciva. E quindi la nuova Trabant, che poi ha visto la luce solo in pochi esemplari, perché con la caduta del muro e la fine della Germania Est anche questo progetto è stato accantonato, ma diciamo noi eravamo lì per questo nuovo motore della Trabant che abbisognava di un carburatore, visto che non sarebbe stato più un due tempi ma un quattro tempi, e quindi c'era diciamo una sorta di evoluzione della celebre automobilina della Germania Est. E come dicevo ero lì da più di un mese, era anche diciamo il primo periodo in cui ero arrivato in Germania Est per questo lavoro, e proprio a cavallo diciamo di questo avvenimento, perché il muro è caduto praticamente alle 19 o poco dopo di sera, dopo appunto un servizio sul TG, anche sul telegiornale anche della Germania Est, dove appunto questo ministro diceva che si poteva già uscire dalla Germania Est, bastava avere un documento. E quindi io quella sera lì però ero, diciamo, intanto ero senza TV, quindi non era un elemento, vivevo, diciamo, in una residence, per cui diciamo certe notizie non è che arrivavano immediatamente. Oltretutto quella sera lì io andai a letto prestissimo, perché siccome dovevo prendere un aereo a Berlino Ovest alle 7 del mattino e quindi dovevo passare checkpoint Charlie, tutti i vari controlli, che ci voleva del tempo, allora diciamo chi aveva più esperienza mi diceva: ti conviene muoverti alle 4 del mattino, perché così sei sicuro di riuscire ad arrivare. Poi oltretutto, sai, bisognava essere là almeno un'ora prima per quella sorta di avventura, cioè possiamo immaginare, no, che avventura poteva essere, no, attraversare quel confine tutte le volte. Ma tu hai sentito un po' di rumore per strada? Beh, io ho sentito qualche rumore per strada, ma non è che mi diciamo meravigliavo di questo, perché qualche giorno prima mi ricordo che c'erano dei festeggiamenti, perché là si festeggiava, non so se lo si fa ancora, c'era la festa dell'uomo, c'era la festa della donna in Germania Est, c'era anche la festa dell'uomo, e quando c'era la festa dell'uomo c'erano tutti in strada con dei carri, perché chiaramente non si poteva bere ubriachi, ma con carri con sopra barili di birra e gente che festeggiava. E questo era successo qualche giorno prima, quindi io immaginavo, boh, ci sarà qualche altra festa di questo tipo, ma poca cosa, anche perché io poi stavo al 12° piano di un residence, quindi anche in alto. No, più che altro la cosa che mi ha destato qualche sospetto è che io mi sono presentato al checkpoint Charlie la mattina successiva alle 4:30 e non c'erano più tutti quei controlli assidui, no? Perché c'erano praticamente tre barriere da superare, e la cosa, oltretutto, c'avevo anche davanti a me un paio di Trabant che andavano a ovest. Questa cosa chiaramente non era, era, diciamo, insolita, però io pensavo anche, sarà anche per l'orario, no? Forse qualcuno, ci sarà un consolato, una cosa dell'est a Berlino Ovest, e a quest'ora forse queste persone si stanno muovendo per andare a prendere posto nell'ufficio, cioè io l'ho immaginata così. Poi niente, sono arrivato all'aeroporto di Tegel con larghissimo anticipo, quindi non c'era nessuna cosa che manifestasse, diciamo, un avvenimento di chissà quale cambiamento. Chissà quale cambiamento. Non c'erano ancora i Pink Floyd. No, non c'era niente. Quindi, arrivato a Bologna, la prima cosa che ho fatto, visto che anche sull'aereo solitamente c'erano i giornali, no? Anche se non in italiano, non c'era nessun quotidiano sull'aereo. Appena sono arrivato alla stazione di Bologna, vado a comprare il giornale, erano quasi tutti finiti, c'era rimasto solo una copia dell'Unità nella edicola dell'aeroporto di Bologna, e lì la notizia è caduto il muro di Berlino. Quindi, e tu l'hai scoperto lì? Io l'ho scoperto praticamente lì, sì, è stata lì la scoperta. Quindi, sicuramente un racconto in controtendenza, perché con tanti mitomani che magari non c'erano, ma dicono: io l'ho visto, c'ero anch'io, perché bisogna essere sempre sul posto. Tu c'eri invece non l'hai, sì, visto. Sì, al lunedì successivo ero già di nuovo lì, perché ero, diciamo, in una, fra virgolette, licenza di 48 ore. E come hai trovato prima e dopo? Beh, il primo dopo, nel senso, quando sono tornato era un delirio, nel senso che a Berlino Ovest c'erano i campi della Croce Rossa che davano via i minestroni da mangiare, perché c'era, diciamo, una situazione anche di emergenza, nel senso che tutti passavano dall'est, passavano da Berlino Est per andare all'ovest. E quando sono arrivato e sono rientrato a Berlino Est, sono stato anche avvicinato da dei cecoslovacchi che per dei soldi volevano che io li portassi di là, perché chiaramente c'è stato un primo momento di apertura totale, no? E dopodiché, quando la baldoria, fra virgolette, si è calmata, è ripreso, diciamo, un controllo, anche se non come era precedentemente, della frontiera. Quindi un cittadino cecoslovacco non è che poteva passare e andare a Berlino Ovest, lo potevano fare quelli della Germania Est, ma non i cecoslovacchi. Quindi dovevi fare il passer. Sì, e quindi volevano che io li nascondessi nel bagagliaio della macchina, visto che non c'erano più i controlli di una volta, per portarli di là. E addirittura mi offrivano banconote, avevano diverse disponibilità, dollari, sterline, addirittura anche lire italiane e Deutschmark, avevano, diciamo, il loro tesoretto che gli serviva così per fare questo viaggio, questa esperienza. Ecco, tornando a questo volume, Io dove ero il giorno in cui cadde il muro, è una Berlino dove Ulbis andava a sopravvivere. Sì. Corrisponde a quello che ti ricordi oppure è un po' romanzata? La no, no, il racconto, devo dire che il racconto è molto fedele. Forse diciamo più romanzato, passami il termine, nel disegno, no? nel vedermi così magro, non so. Ci sono alcune cose, diciamo, che sono state sicuramente un pelo arricchite, ma il racconto è fedelissimo. E quindi racconta anche di questa esperienza dove fondamentalmente quello che noi poi abbiamo percepito in quella fase, in quel momento, tra prima e dopo, diciamo, quello che mancava al cittadino dell'est principalmente erano i cosiddetti prodotti commerciali che tanto luccicano, no? Come la Coca-Cola, il TV Color Sony, ti elenco quelli che erano un po' la Golf, immagino. La Golf, la Volkswagen Golf o la BMW, erano questi gli elementi. Ma anche lo yogurt Jocche. Sì, e poi le cose di marca. Ecco, le cose che poi fondamentalmente non è che non ci fosse lo yogurt all'est, però si puntava su cosiddetti brand di marca, perché questi chiaramente si vedeva la TV occidentale, non erano più periodi in cui il governo dell'est disturbava i segnali televisivi dell'ovest, e quindi, come è successo anche per gli albanesi, no? Quello che era italiano, che si vedeva dalla TV, per loro era la concreta realtà della vita nel nostro paese, e così era per il tedesco dell'est. Quello che poi ha, fra virgolette, subito, che improvvisamente poi gli affitti sono aumentati dell'800% quando è caduto il muro, ma quando c'è stata la riunificazione, è tutta una serie di servizi che prima erano dovuti, adesso erano... La vetrina non era più tale. Non era più tale. Avendo visto la Germania prima della caduta del muro, ti meravigli o non ti meravigli magari certi rigurgiti reazionari fascisti che si vedono oggi? C'erano già in nuce allora oppure una cosa, tutto un prodotto post muro? Io sinceramente non ho mai notato che ci fossero dei soggetti di quel tipo lì, almeno prima della caduta del muro, questo all'est. Però per racconti di qualcuno che diciamo là ci viveva, mi ha detto che ad esempio il fenomeno Nazi-Skin a Berlino Est esisteva. Poi dopo che fosse tenuto in disparte o sotto controllo o che ne so, però diciamo era un fenomeno esistente. Probabilmente diciamo poi il rigurgito di destra che c'è oggi soprattutto nell'ex Germania Est, perché è lì che è il fenomeno più forte, forse anche una sorta di nostalgia del passato, non hitleriano, ma forse di quello, diciamo, di un regime come era quello della Germania Est, dove comunque tutta una serie di regole erano ferre e una serie di questioni erano d'obbligo, come dire, uno non poteva essere disoccupato. Se tu giravi nel periodo pre-caduta del muro per Berlino Est, che era la capitale dell'Est, quindi stiamo parlando di una città importante, alle 10 del mattino per strada in centro trovavi o i vecchi o dei giovani che ormai studenti che andavano a scuola, non c'era la gente era al lavoro, ecco, questo era. Ecco, no, ancora una cosa allora, perché tu parli di questo regime così anche severo, due racconti, due pagine in questo graphic novel, uno un agente da Stasi che ti ricopia un volantino della FIOM che avevi appiccicato, e l'altro che ti avevano cercato di clonare la segreteria telefonica per sentire i tuoi contatti. Sono cose vere? La segreteria telefonica, sì. Sì, perché io avevo uno sfratto esecutivo a Bologna in quel periodo, quindi dovevo sentire se eventualmente l'avvocato mi mandava dei messaggi, e quindi io avevo messo in piedi una segreteria telefonica a casa mia qua a Bologna che si controllava con un comando remote che era con suoni impulsi. Una mattina ascoltando la segreteria mi sono trovato un sacco di messaggi fatti con degli impulsi, cioè questo cosa vuol dire? Che qualcuno aveva tentato di entrare dentro questo meccanismo pensando di scoprire che cosa, e immagino che fossero quelli della Stasi. Io usavo un telefono aziendale che quindi era diciamo molto più facile chiamare in Italia rispetto a una cabina telefonica dove era un disastro chiamare fuori dalla Germania Est, e probabilmente questo telefono, anche se era quello diciamo del capo nostro italiano, era sotto controllo. L'altra cosa casa, una mattina mi sono trovato uno che mi ricopiava un volantino che era appoggiato sulla capelliera dell'auto, della mia auto, della FIOM. Ho tenuto un volantino che avevo preso quando ero tornato a Bologna e poi ritornato lì, che c'era forse in corso un rinnovo del contratto metalmeccanico, e questo ricopiava con fatica, no, quello che c'era scritto, perché era scritto in italiano, pensando forse di fare un servizio alla Stasi, non lo so, cioè questo. Poi io sono sceso, gli ho fatto un urlo, lui è scappato via. Però ho visto che alla fine stava ricopiando un volantino della FIOM, questo per dire, episodi. Però voglio dire, dal mio punto di vista, queste azioni dei Vopos, della Stasi, a me facevano molto sorridere, al di là che fossero drammatiche per certi aspetti, perché fondamentalmente era come piantare un pugnale nel burro. Il cittadino del tedesco dell'est era rispettosissimo anche di ordini casomai non tanto normali, mentre noi italiani siamo abituati a mettere in discussione anche un vigile che ti fa la multa. Questo per loro non esiste, e quando uno motiva, no, o si giustifica rispetto anche a un'infrazione del codice stradale, addirittura mi è capitato che la polizia non mi ha fatto la multa perché ha ritenuto la mia giustificazione giusta. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Teach and leave them kids alone. Dunque Andrea, chiamato Attilio, protagonista di questo Io Dovero, il giorno in cui cade il muro, con Francesco di Taranto ai testi e Lucrezia Buganè alle illustrazioni, edito da Lavieri. E con questo anche oggi è tutto, risentirci, ciao. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di